Italia in controluce. Sono le 13, 34 minuti e 15 secondi, vi parla Daniele Biacchesi su Radio 24, questa è Italia in controluce. Case di un ente pubblico destinate ai bisognosi, assegnate spesso a personose facoltose, amici, parenti degli amici. Uno scandalo come quello delle case del Pio Albergo Tiburzio che diventa una vicenda nazionale. E c'è di più, perché pochi minuti fa, questa mattina, dopo gli elenchi degli inquilini del Tiburzio che hanno sollevato il caso degli affitti di favore, è la volta anche della Fondazione Policlinico di Milano. E si sa che l'ex assessore lombardo Prosperini, finito in carcere per le tangenti alla fine del 2009 con una pena che era stata poi patteggiata, 3 anni e 5 mesi, è uno degli inquilini dei beni immobiliari del Policlinico. Era a Vernate, comune sud di Milano, una superficie complessiva di 700 metri, un canone risulta zero. Enrico Fedrighini, consigliere comunale dei Verdi, 2 bilocali diventati un unico appartamento da 120 metri quadrati in zona San Siro per i quali paga 1 migliaio di euro al mese. Poco fa le smentite e sentiremo poi nelle prossime edizioni del nostro giornale radio l'evoluzione di questo caso. Intanto riepiloghiamo e ricostruiamo la vicenda del Pio Albergo Tiburzio. Per chi non è milanese, la baggina non dice molto, a meno che non si specifichi che la baggina è l'appellativo con cui i milanesi chiamano il Pio Albergo Tiburzio, la casa per anziani. Lì si aprì la falla che spianò la strada alla valanga Tangentopoli. Questa volta al Tiburzio non si parla di tangenti, ma di affitti e vendite a prezzi, diciamo così, di favore, prezzi low cost. Che il Pio Albergo fosse in cerca di risorse era noto da mesi. Per le opere di ristrutturazione c'era bisogno di 40 milioni di euro. La presidente della Commissione Casa e Demanio di Palazzo Marino e consigliera di Futuro e Libertà, Barbara Chabot, ha voluto vederci più chiaro. Chiamato a risponderne in aula, però, il presidente del Tiburzio non si è presentato. Al suo posto Fabio Nitti, direttore generale, che si è lasciato sfuggire che le case vanno ai più ricchi perché sono quelli che forniscono maggiori garanzie, dunque non a chi ha bisogno. In principio il Tiburzio non vuole sganciare la lista di affittuari e acquirenti, questione di privacy. Venerdì la vicenda si sblocca e la lista viene consegnata a Manfredi Palmeri, presidente del Consiglio Comunale. Ieri mi è stata consegnata personalmente dal presidente del Pio Albergo Tiburzio, professor Trabucchi, un plico che secondo quanto mi è stato comunicato contiene l'elenco dei nominativi degli affittuari degli immobili di proprietà dell'azienda di servizi alla persona. Strana coincidenza, proprio il 17 febbraio del 92 Mario Chiesa, allora presidente del Tiburzio, finiva in manette. Nella lista, con nomi, cognomi, metri quadri e canoni, c'è di tutto. Politici, funzionari, direttori sportivi, personaggi dello spettacolo. In alcuni casi gli affitti non sono poi nemmeno così lontani da quelli pagati dai comuni mortali, considerando che molti appartamenti sono stati ristrutturati dall'inquilino. Certo però c'è anche chi, il politologo Galli per esempio, in piazza Mirabello paga 1.200 euro per 128 metri quadri. O chi, come l'assessore lombardo alla casa, Zambetti, è riuscito a comprare 110 metri quadri in Corso Sempione a poco più di 500.000 euro. In troppi sono nomi noti, il che insinua più di un dubbio sulla trasparenza delle procedure di assegnazione, la cui supervisione è affidata al presidente. L'attuale è Emilio Trabucchi, in quota PDL, già invitato a fare un passo indietro. Questa è la ricostruzione di Valeria De Rosa. Ma quanto dovrebbero effettivamente pagare i VIP affittuari del Pio Albergo Tiburzio? Se dovessero proprio rivolgersi come comune mortali ad una qualsiasi agenzia immobiliare? Paola Ceretta. Nella lista dei 1.064 immobili affittati dal Pio Albergo Tiburzio figurano una serie di nomi più o meno noti che usufruiscono o hanno usufruito di canoni di affitto particolarmente agevolati, ma che non corrispondono al valore reale dei canoni di affitto in quella zona. Ad esempio, in via Santa Marta, Guido Manca, consigliere comunale del PDL, ha in locazione un appartamento di quasi 59 metri quadrati per un affitto annuo di 5.015 euro. Piero Testoni, nipote di Cossiga e parlamentare PDL, invece, ha in locazione un appartamento di 80 metri metri quadri per 8.438 euro all'anno. Il canone mensile di un appartamento di 60 metri quadrati in quella zona è di 1.000 euro, mentre per uno di 80 metri quadri è di 1.300 euro. In zona Moscova, piazza San Marco, invece, Luciano Buonocore, presidente del Consiglio Comunale di Peschiera Borromeo, ha in locazione un appartamento di 128 metri quadri per 5.723 euro all'anno. Maria José Falcicchia, dirigente della Questura di Milano, ha in locazione un appartamento di 75 metri quadri per 11.262 euro all'anno. Invece, il canone mensile per un appartamento di 125 metri quadrati nella stessa zona è di 2.650 euro. In corso di Porta Romana, Domenico Loiucco, cofondatore di Forza Italia, ha in locazione un appartamento di 120 metri quadrati per 10.242 euro all'anno. Giuseppe Rossetto, ex parlamentare di Forza Italia, ha in locazione un appartamento di 92 metri quadrati per 8.805 euro all'anno. Cinzia Sasso, giornalista, aveva in locazione fino al 2008 un appartamento di 118 metri quadrati per 6.846 euro all'anno. Il canone mensile per un appartamento di 105 metri quadri nella stessa zona è di 2.085 euro. Passiamo invece agli esercizi pubblici. Ad esempio, la gelateria Frullateria Viel di Corso Buenos Aires ha in locazione un negozio, un laboratorio, un magazzino e una cantina per un totale di 270 metri quadrati a 56.943 euro all'anno. Il canone mensile per un negozio di 30 metri quadri nella stessa zona e quello di Viele di 36 metri quadrati è di circa 1.000 euro. Italia in controluce. Pio Albergo Trivulzio, un luogo che ci porta veramente indietro nel tempo e nella memoria. Era il 17 febbraio del 92 quando veniva arrestato a Milano Mario Chiesa. Ma nel nostro paese, secondo voi, la corruzione è ancora un fatto importante da mettere, diciamo, nel calendario delle nostre discussioni, oppure la corruzione è finita? Quali sono i costi sociali ed economici della corruzione? Maria Luisa Pezzoni. La corruzione costa. Costa in termini sociali ed economici e il costo è a carico dei normali cittadini, gli italiani onesti che pagano le tasse e rispettano le regole. Rendere tutti consapevoli di questa situazione aiuta a contrastare l'illegalità. Questo è l'obiettivo per cui Altre Economia e Avviso Pubblico hanno messo intorno a un tavolo Gherardo Colombo, ex magistrato titolare di inchieste che hanno fatto storia dalla P2 a Mani Pulite, Umberto Ambrosoli, avvocato, figlio di Giorgio Ambrosoli, liquidatore della banca privata italiana assassinato nel 1979 da un killer ingaggiato da Michele Sindona, e Marco Arnone, economista, autore del libro La corruzione costa, effetti economici, istituzionali e sociali. Partiamo dai numeri. La corruzione in Italia è una tassa occulta da 60 miliardi l'anno. Grava anche sui neonati per un tributo pro capite che oscilla intorno ai 1.000 euro. Il nostro paese, secondo l'ultima classifica elaborata da Transparency International, il network globale per la lotta alla corruzione, è al 67esimo posto nel mondo per indice di corruzione, dietro paesi come Ruanda, Ghana, Cile, Costa Rica. All'incremento di un punto percentuale di questo indice corrisponde a una diminuzione di un punto e mezzo del rapporto entrate pubbliche PIL e di 16 punti percentuali dei flussi di investimenti esteri. La corruzione facilita anche l'evasione fiscale, sottolinea Marco Arnone, che punta il dito contro i mancati controlli sulle transazioni finanziarie sospette. L'evasione fiscale è molto più possibile, molto più facilitata in contesti altamente corruttivi, altamente corrotti, perché è molto facile trovare un professionista che mi aiuta a eludere e evadere, è molto facile che la banca non segnali certe transazioni strane, le segnalazioni che dovrebbero essere fatte dalla Banca d'Italia. Cioè, la banca è un proprio cliente che ha dei grossi depositi presso di sé. Che interessi ha a far vedere chiaramente che quel cliente può avere alcune parti sospette? Perché quel cliente, dopo la prima segnalazione, prende tutto e se ne va dall'altra parte. Allora capite che il direttore di filiale, i responsabili dell'assessment, eccetera, dei rischi della banca, ci rimettono eventualmente la propria carriera. Allora, affidare al sistema finanziario il controllo sulla correttezza formale e sostanziale delle operazioni finanziarie, io sono profondamente dubbioso. Allora, i numeri esponenzialmente cresciuti negli ultimi 20 anni di segnalazioni sospette, il dubbio viene io posso rendere efficace un sistema, come si fa normalmente in informatica, non solo tagliando la corrente elettrica, ma anche sovraccaricandolo di informazioni. Posso bloccare internet sovraccaricando internet. Le banche per legge dovrebbero rischiare di più, dice Umberto Ambrosoli. Se la banca però capisce che da responsabile verso il cliente, come è sempre stata, diventa per volontà normativa responsabile del suo cliente, cioè complice di quelle operazioni, allora il passo avanti è enorme. È solo che il nostro ordinamento, un ordinamento, il nostro non solo il nostro, un pochettino di slacco. Per cui un giorno ti dice una cosa, il giorno dopo in una norma che parla di tutt'altro sembra darti un input in senso opposto. Ad esempio, è ben difficile combinare la normativa sull'antiriciclaggio con la sostanza, prima ancora che con la struttura di 100.000 scudi che vengono fatti. Perché lo scudo ti dice, porta a termine un'operazione di riciclaggio. Sono stati portati via dei denari da qualcuno. Beh, l'importante è che rientrino, la priorità è che rientrino. L'importante è fare cassa. Non importa da dove arrivano, non importa come siano state fatte. Allora no, le norme non bastano. Visto che la partita si gioca tutta a livello finanziario, la vera sfida del futuro per i legislatori, i professionisti, gli educatori sarà quella di rendere conveniente la legalità. Per Gherardo Colombo, però, prima delle regole deve arrivarci la cultura. Se sta prima la cultura rispetto alle regole, la soluzione passa attraverso un cambiamento della cultura. Sono le 13:45 minuti e 34 secondi, era la seconda edizione di Italia in controluce dedicata al fenomeno della corruzione ma anche al malcostume sull'inchiesta sul Trivulzio di Milano. Cercateci tutti i giorni su Facebook, su Twitter oppure attraverso la mail controluce@radio24.it. La mia voce torna domani puntuale 6:30 su Radio 24 con un reportage di Paolo Piacenza nella pancia della Lega.